Ui Cacci. Moscerino salta la mosca, nero e giallino sogna la frasca. Vino spumoso aperta la porta, liscio e vetroso mosto di colla, rosso odoroso pubblico serva, sarò famoso vino di merda. Cacci. E poi pianino vede la fiasca, fa un bel saltino, dentro ci casca. Aperta la porta, liscio e vetroso mosto di colla, rosso odoroso pubblico serva, sarò famoso vino di merda. Adesso ci sei, Moscerino e Walk of Fame, adesso orgoglioso, dentro il vino appiccicoso, adesso famoso.